rimasta per mio aspetto. Forse tu ancor crudele al padre credi, che il mio natal confonde, innalzare il suo genio al soglio. Non sai quanto ha potuto passata via. Avanti dei, col suo reale impegno, m'assicurò il soldato dell'essere tuo. Esserti sposa, ancor che suo successore tu non sia, ma in fam pregai, ingrata, ove l'affetto, addio, t'adoro. Ma se inutile l'amor, lascio che segua mia sorte.